tutti e benvenuti alla prima puntata di Radiobook, il programma del blog degli scrittori della Porta Accanto, ossia una meravigliosa novità di cui dobbiamo ringraziare Davide e Giorgio di Radio Big World. Io sono Giulia Mastrantoni e scrivo per il blog degli scrittori emergenti da un anno e mezzo. Che ci conosciate già o che sia la prima volta che i nostri mondi si incrociano, vi diamo il benvenuto in questa avventura insieme. Durante le nostre puntate parleremo di viaggi, di libri, di musica, di fotografia, di donne incredibili e di tutto ciò che la nostra redazione ha conosciuto e apprezzato nell'arco degli anni. Non mancheranno interviste e letture di romanzi, come pure contest e cose per appassionati di ogni genere. Siete pronti per iniziare? Oggi vogliamo parlarvi di Laura Decker. Chi è Laura? È la più giovane velista ad aver completato il giro del mondo via mare, in solitaria. Indovinate quanti anni ha? È nata nel 1995, più giovane di me, pensate un po', e cercando in internet le parole giro del mondo, esce fuori il suo sito. Laura è nata in Nuova Zelanda, su una barca, perché i suoi genitori stavano navigando per il mondo. Quindi la navigazione e il mare sono nel DNA di Laura. Fin da bambina sentiva di essere nata per viaggiare in barca, non voleva stare sulla terraferma. All'età di 14 anni ha deciso di intraprendere un viaggio intorno al mondo, ma il tribunale dei minori olandese ha provato a fermarla. Proprio prima del suo 15° compleanno, Laura ha deciso di andare in aula e di convincere i giudici di essere capace di navigare intorno al mondo da sola. La battaglia legale di Laura è stata complicata, ma lei non ha mai smesso di inseguire i suoi sogni, mai, e ha continuato a prepararsi per il suo viaggio. E ce l'ha fatta, perché il suo viaggio è iniziato il 21 agosto del 2010. Abbiamo avuto la fortuna di intervistare Laura e le abbiamo fatto mille domande. Com'è possibile che una ragazza così giovane abbia così tanta voglia di viaggiare e non si sia fermata davanti a ostacoli così grandi? Laura ci ha risposto di non aver mai realmente pensato a quello che stava facendo. È cresciuta con il mare e lo ha sempre amato. Navigare era ed è la cosa più normale del mondo per lei. Non ha mai pensato di navigare al posto di andare a scuola. Voleva combinare le due cose. Infatti Laura ha studiato durante tutto il tempo del suo viaggio e durante tutta la sua adolescenza. Semplicemente non voleva piegarsi al sistema. Non voleva avere persone che decidessero per lei, non voleva sentirsi dire che cosa dovesse fare. Voleva viaggiare per il mare, voleva vedere il resto del mondo, esplorare, incontrare nuove persone o navigare semplicemente verso nuovi orizzonti. Questo era quello che voleva e ha capito di volerlo fare all'età di 13 anni addirittura. Aveva una barca, aveva un po' di soldi, aveva pratica, aveva esperienza. Non c'era nessuna ragione al mondo per non partire, quindi perché no? Spaventata, eccitata, sola, felice, triste. Il giorno in cui è partita era un giorno bello, un giorno brutto, un giorno perfetto, era un turbinio di emozioni e non si potrebbe descriverle completamente tutte, neanche iniziare a descriverle. È stato il giorno più felice e eccitante della sua vita. Molte persone hanno provato a fermarla, ma lei ha deciso di continuare a viaggiare perché aveva un sogno. È una persona molto determinata, lo è sempre stata, però ci sono stati problemi tecnici, momenti ardui durante il viaggio. E ci sono in ogni sforzo, che sia grande o che sia piccolo. La sfida di Laura era essere realmente sola per la maggior parte del tempo e non poter mai chiedere aiuto a nessuno. Se si rompeva qualcosa, se andava storto qualcosa, Laura era sola, in mare. Però tutto questo le ha insegnato moltissime cose e rapidamente. Laura ha continuato a viaggiare, a riparare quello che si rompeva e a crescere. Laura oggi è sposata. Vive su una barca, fa consegne di yacht per alcune persone insieme al marito, fa attività per programmi all'aria aperta con alcune scuole locali della zona, fa presentazioni, lavora in barca, un mix di cose. Sta cercando di trovare una barca più grande e spera di portare le persone, bambini, teenager, chiunque, in mare aperto per mostrare loro quanto sia magnifico l'oceano. Il consiglio che Laura dà a tutti noi, soprattutto ai giovani, è di andare, perché nessun posto è perfetto e mai lo sarà. Però ci sono persone ovunque, e che siano buone o cattive non è importante. C'è cibo, c'è acqua, ci sono luoghi in cui ripararsi, e non c'è bisogno di altro. Quindi non abbiate paura di andare, aspettatevi momenti difficili, scomodi, ma aspettatevi anche tanta meraviglia e tanti insegnamenti, un sacco di insegnamenti. Preparatevi bene per i vostri viaggi, ma non lasciate mai che le preparazioni diventino una scusa per rimandarli. Il mare si sa, non attira solo gli addetti ai lavori, ma anche artisti, poeti, musicisti, scrittori. La persona di cui voglio parlarvi oggi è una scrittrice che collabora con il nostro blog già da un po'. Si chiama Silvia Pattarini e ha scritto Biglietto di terza classe, un romanzo che parla di immigrazione. Vorrei leggervi un estratto del suo romanzo, in cui c'è una descrizione del mare molto intensa, diversa forse da quella che darebbe Laura, ma ugualmente importante. La lunga traversata. I giorni trascorrevano lenti e tutti uguali sul bastimento che solcava le gelide acque dell'Oceano Atlantico, con destinazione New York. Il dormitorio era diventato una sorta di cantina sudicia e maleodorante, dalla quale anche i topi avrebbero voluto fuggire gettandosi a mare. Era meglio trattenersi all'interno il meno possibile, giusto il tempo di riposare per qualche ora. I bambini piangevano e strillavano, un po' per la fame, un po' per il mal di mare che li portava continuamente a espellere conati di vomito. La gastroenterite si stava diffondendo rapidamente tra i piccoli passeggeri, senza risparmiare nessuno, con i relativi disagi. Il medico di bordo cercava di fare del suo meglio, con l'aiuto di qualche volontario e di alcuni marinai che gli armatori non esitavano a spacciare come infermieri, anche se in realtà non avevano nessuna qualifica di infermiere, ma non erano abbastanza abili e prestanti come marinai. La situazione era leggermente migliore nel dormitorio maschile, perché i bambini presenti erano tutti più grandicelli. Avevano almeno dai 7 anni in su, ma anche qui le condizioni igienico-sanitarie erano molto precarie. Ad alleviare quella penosa situazione ci pensavano alcuni ragazzi napoletani che, con i loro tipici strumenti musicali, mandolino, organetto, ciaramelle, violino, musicavano spesso note canzoni napoletane, tirando su il morale dei passeggeri. Le musiche più apprezzate erano le tarantelle, grazie alle quali si trascorreva buona parte del tempo a ballare, ridere e scherzare. Si stringevano nuove amicizie, specie tra ragazzi e ragazze. Magari nasceva anche qualche nuovo amore. Alcuni di loro danzavano e contemporaneamente suonavano il tamburiello, un piccolo tamburo con delle lamelle metalliche fissate lungo la circonferenza, che emettevano il tipico suono metallico semplicemente scuotendolo. E le castagnelle, strumenti di legno simili alle nacchere spagnole, che si schioccavano tra le dita. In realtà, a causa di qualche bicchiere di troppo, ogni tanto scoppiava qualche scazzottata. Le compagne si lasciavano trasportare da quella musica leggera, in particolare restavano molto colpite dalla canzone Funicoli Fulicolà, e ben presto, pur non comprendendone il significato, impararono a memoria quell'accattivante ritornello. Nel frattempo, il bastimento solcava le acque dell'oceano, nei pressi delle Isole Azzorre, un arcipelago di 9 isolette di origine vulcanica, nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico. Un vasto arcipelago, dove la distanza minima tra 2 isole vicine è di 6 chilometri, mentre la distanza massima tra le due più lontane è di circa 600 chilometri, quasi la distanza tra Napoli e Genova. Giunsero proprio nel punto in cui si incontrano le correnti calde del Golfo e le correnti fredde del profondo oceano. Qui le acque abbondavano di pesci di ogni tipo e dalla nave si potevano ammirare delfini, balene, orche tra lo stupore dei passeggeri. «Guardate laggiù, un gruppo di balene!» gridò qualcuno tra la folla. Lina e le compagne si voltarono a destra. E scorsero un gruppo di 4 balene che riemergeva dal mare spruzzando un getto d'acqua dalla sommità del capo. Alla loro sinistra un gruppetto di delfini fluttuavano leggiadri e sinuosi tra le acque azzurre incontaminate. Che grande emozione! Sospirò Lina rivolgendosi alle amiche. Più avanti incontrarono un altro gruppo di enormi cetacei. Quelle sono orche, rispose gentilmente il solito marinaio. Siete fortunate a poter vedere questi bellissimi esemplari. Sono i giganti del mare, non è facile incontrarle, osservò il ragazzo mentre si avvicinava a Lina. Impiegarono l'intera giornata ad attraversare il lungo tratto di mare che costeggiava l'arcipelago, mentre il piroscafo si dirigeva proprio in direzione di grandi nuvoloni neri e grigi che non promettevano nulla di buono. Quella che vista da lontano assomigliava a una festa di luci danzanti nel cielo plumbeo sopra il mare piatto, in realtà celava una minaccia oscura. Un forte temporale con folgori e fragore di tuoni si preparava proprio di fronte a loro. Forti raffiche di vento cominciavano a soffiare da ovest, facendo oscillare la nave tra le onde che si facevano sempre più burrascose. Il comandante diede l'ordine ai passeggeri di ritirarsi nei dormitori e di rimanere lì fino a nuovo ordine, mentre per i marinai iniziava un grande lavoro per fronteggiare l'eventuale emergenza tempesta. Nelle situazioni di emergenza il pericolo maggiore era per gli uomini addetti alla caldaia, che che dovevano continuamente alimentare il fuoco col carbone. Le onde sballottavano la nave a destra e a sinistra, senza preavviso, e quei poveretti correvano il rischio di ustionarsi contro le lamiere incandescenti della caldaia. In breve tempo il vento cambiò e si scatenò una tempesta. Ora la voce del mare si faceva sentire con tutta la sua furia. Le onde divenivano sempre più grandi e impetuose. Le forti raffiche di vento si facevano sempre più intense. L'acqua aveva assunto un minaccioso colore marrone e si riversava sul ponte della nave, mischiata alla pioggia battente che cadeva ovunque. Dentro i dormitori ballava tutto. I bambini piangevano per la paura e le madri, spaventate pure loro, non sapevano come confortarli, se non stringendoli forte tra le loro braccia. Lina e le compagne si erano rintanate sotto i letti, tenendosi strette per mano. Tremavano come foglie al vento per la paura. Molte persone vomitavano per il mal di mare. I fagotti e i bagagli a mano che a loro volta erano stati riposti in alto, adesso cadevano giù, come sacchi di patate, rischiando pure di ferire qualcuno. E si disperdevano così, nel camerone. Fuori le onde erano alte, anche più di 4 metri. Si riversavano inevitabilmente sul ponte e trascinavano via tutto. L'acqua rischiava di entrare anche nella stiva, nonostante fossero stati chiusi tutti i boccaporti. I marinai gridavano: «Se entra l'acqua, rischiamo di affondare!» Quelle grida diffusero il panico tra i passeggeri. Lina le aveva sentite. «Oh Dio, il bastimento affonda! Preghiamo, preghiamo tutte insieme! Non ci arriviamo in America, neghiamo tutti qui!» Lina prese la corona del rosario che teneva sempre in tasca. E a voce alta iniziò a pregare. Tutte le donne seguirono il suo esempio, e in breve tempo il dormitorio femminile si trasformò in un luogo di culto, dove tutti pregavano il Signore e invocavano la sua clemenza e la sua protezione. In preda al panico chiuse gli occhi e le tornarono alla mente tutti i suoi ricordi più cari, belli o brutti che fossero. Nel giro di pochi attimi le balzò alla mente la sua casa, con le montagne, e i suoi genitori, con il fratello. Avrebbe voluto fuggire da quella situazione inverosimile e trovò conforto immaginando di trovarsi a pregare nella tranquilla, piccola, antica chiesetta di Macerato, circondata dalle sue querce secolari. Nel suo inconscio immaginava di essere di nuovo a casa, invece si trovava in mezzo al mare in balia di onde gigantesche. Nella cucina della nave un vero disastro: tutte le pentole, le stoviglie, le posate. Era tutto caduto a terra, rovesciandosi sul pavimento. Il cuoco e i suoi aiutanti non si reggevano in piedi. Getti di vomito andavano a riversarsi alla rinfusa su pentole e vivande. Pareva un recinto di maiali che si rimestavano in una confusione di sporcizia. Carote, patate, uova rotte, scarti di pesce. Intanto nella sala macchine si era scatenato l'inferno e si consumava una tragedia. In condizioni di normalità in sala macchine lavoravano i macchinisti, che riparavano le avarie e oliavano le giunture. I fuochisti che alimentavano le caldaie col carbone, ma quel brutto giorno, a causa di un'onda particolarmente violenta, ci fu un improvviso ritorno di fiamma che andò a colpire in pieno un ragazzo addetto all'alimentazione della caldaia, il quale tra grida strazianti di dolore rotolò a terra in fiamme. I suoi compagni, spaventati, sbigottiti e increduli, non ebbero nemmeno il tempo di soccorrerlo. Solamente un ragazzo dal sangue freddo riuscì a intervenire tempestivamente, lanciandogli addosso un secchio d'acqua che servì a smorzare l'incendio. Purtroppo il giovane riportò gravissime ustioni su gran parte del corpo. Successivamente un'altra onda violenta fece rullare nuovamente la nave. Un raccapricciante lezzo di carne umana bruciata si diffuse nella stanza, mischiandosi all'odore di carbone, fumo e sudore. I ragazzi erano sconvolti e terrorizzati. Alcuni piangevano. Il comandante cercò di mettere a tacere la sciagura, promettendo un doppio salario a tutti coloro che avessero tenuto la bocca chiusa. Il medico di bordo aveva il suo bel da fare, doveva curare le ferite e le contusioni, ma la cosa che più lo preoccupava, oltre al gravissimo ustionato, erano le donne in stato interessante che, dopo essere state sballottate per ore, rischiavano l'aborto. Lina e le sue amiche tornavano a tirare un sospiro di sollievo. Dopo quelle lunghe ore interminabili, gradualmente, la furia della tempesta si era placata. Per questa volta l'abbiamo scampata. Potremo raccontare la nostra avventura ai nostri figli e ai nostri nipoti se mai ne avremo. Siamo fortunate e ringraziano il Signore per averle protette. Avete sentito cosa è successo in sala macchine? Qualcuno afferma che un ragazzo sia bruciato vivo, è caduto dentro la caldaia quando la nave si è inclinata, ma sarà vero? Altri dicono che sia tutta una burla, uno scherzo di carnevale. Siete curiosi di leggere il resto della storia? Allora vi ricordiamo che il titolo del libro è Biglietto di terza classe, l'autrice è Silvia Pattarini. Nel frattempo vi saluto a nome degli scrittori della Porta Accanto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!